Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Lo scorso 9 ottobre a Crescentino, in provincia di Vercelli, è stato inaugurato il più grande impianto al mondo per la produzione di bioetanolo di seconda generazione. È basato su una tecnologia, questo impianto, che è una promessa per l'ambiente e un fiore all'occhiello per l'Italia, sviluppata dal gruppo Mosse Ghisolfi in joint venture con la danese Novozym. Produrrà l'impianto 75 milioni di litri all'anno di etanolo, che è un alcol che può essere mescolato con la benzina, di solito fino a circa un 15%. Il bioetanolo di seconda generazione è la risposta al fallimento della prima generazione di biocombustibili, basata su colture alimentari ricche di zuccheri che, tra tutto, coltivazioni intensive, processi di trasformazione, aumento delle aree agricole, finiva per comportare emissioni di CO2 nettamente superiori persino a quelle del petrolio, in qualche caso persino triple, con una sola eccezione significativa: l'etanolo da canna da zucchero brasiliano. Quindi la seconda generazione nasce invece per utilizzare come materia prima gli scarti vegetali, poveri di zucchero e ricchi di cellulosa e lignina, cioè le due molecole più abbondanti nel regno vegetale. Di tutto questo parliamo con il capo della ricerca di Chemtex, gruppo Mossi e Ghisolfi, Dario Giordano. Buonasera Giordano. Buonasera, buonasera. Allora, intanto complimenti, perché io ho visto in germe questo impianto ormai qualche anno fa e avete fatto quello che volevate fare. Allora, ci racconti un po' questo processo. Che cos'è questo, insomma, bioetanolo di seconda generazione? Come si produce? Come diceva lei, la cellulosa e l'emicellulosa che sono presenti nelle piante sono abbondantissimi in natura. In realtà arrivare a produrre o rendere la cellulosa e l'emicellulosa fermentabili a alcol è un processo abbastanza complesso, e hanno provato nel corso dei decenni passati diverse aziende, anche molto grandi, trovando tutta una serie di difficoltà. Ecco, perché il trucco consiste proprio nel trasformare la cellulosa in zuccheri e riportarsi, diciamo, nella situazione dei biocombustibili di prima generazione, no? Un po' questo il concetto. Certo, i combustibili di prima generazione usano normalmente delle derrate alimentari che già contengono zucchero, precursori amidacei degli zuccheri, invece le piante no, quindi bisogna preparare le piante ed estrarre da queste piante, dalla cellulosa e dalla micellulosa, degli zuccheri. Una volta che si è fatto questo, poi si può proseguire con il processo e si fa una fermentazione, una distillazione molto simile a quelli che si usano nell'industria della birra e certo, della distillazione, e che si fanno anche con le tecnologie di prima generazione. Certo. L'innovazione sta nel processo di preparazione delle biomasse cellulosiche a zuccheri semplici. Insomma, tirar fuori zuccheri dalla cellulosa, poi questa roba entra in una sorta di birreria e alla fine in una sorta di distilleria da cui si ricava l'alcol. Ecco, senta, l'approvvigionamento della materia prima, voi che cosa utilizzate e come ve lo procurate? Beh, innanzitutto la tecnologia nasce per essere flessibile con diverse tipologie di biomasse. Qui a Crescentino l'impianto è localizzato nella zona del riso, quindi stiamo facendo un grossissimo lavoro con gli agricoltori locali per utilizzare paglia di riso. Mm-hmm. Le altre biomasse che stiamo utilizzando sono la paglia di grano, anche questo un residuo agricolo, certo, quindi utilizziamo quello che rimane nel campo, che è scarto dopo la produzione della derrata alimentare, e invece poi in aree marginali che sono state abbandonate dalle colture alimentari per scarsa produttività, stiamo aprendo dei cantieri di Arundodonas, che è la canna comune, che raccogliamo e portiamo in stabilimento. La canna dei fossi che cresce, come dire, spontaneamente con grande vigore. Ecco, senta, voi avete in programma di realizzare altri stabilimenti in Italia e nel mondo. Dove vedete la principale difficoltà, però? Magari negli iter autorizzativi per realizzare questi impianti, oppure nel mettere insieme la filiera di approvvigionamento? Perché comunque qui parliamo di quante tonnellate di roba, mi scusi? Beh, stiamo parlando di 200.000 tonnellate di biomassa, però se poi parliamo in termini di ettari, parliamo di 4-5.000 ettari. Sono numeri grandi, ma giusto per fare un paragone, in Italia ogni anno vengono abbandonati dall'agricoltura tradizionale fra i 50 e i 100.000 ettari. D'accordo. Negli ultimi 20 anni l'agricoltura italiana ha perso più di 1 milione di ettari. Costo di produzione di un litro di etanolo con questa tecnologia? Siamo sotto i 50 centesimi al litro e quindi saremo competitivi con i prodotti petroliferi. Grazie Dario Giordano e avanti così. Sicuramente. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.